È una cosa alquanto preoccupante, sebbene nessuno di noi vuol buttare addosso ai sanitari la responsabilità di queste scelte. In questo momento si dà la precedenza ai malati di Covid, però è evidente che il servizio sanitario paga un ritardo nelle assunzioni, nella stabilizzazione dei precari, quindi chi poi appaga le conseguenze alla fine sono i sanitari stessi, ma soprattutto i cittadini che si vedono negati i livelli essenziali di cura. C'è una stima di a quanto ammontano questi ritardi, questi posticipi? Credo che si parli anche di 1 o 2 anni, liste di attesa lunghissime, è molto preoccupante. Stiamo parlando di malati anche piuttosto gravi. Noi tra l'altro lo stiamo denunciando da prima ancora della pandemia. Il servizio sanitario era già in difficoltà. Il numero chiuso alle facoltà di medicina è un altro problema, per cui si sarebbe dovuto, come dire, tutto il sistema, non solo il sistema sanitario, ma anche il governo si sarebbe dovuto muovere con i concorsi, togliere o allargare quantomeno il numero dei posti disponibili alle facoltà di medicina in modo da dare la possibilità alle persone di potersi curare davvero e non di aspettare 2 anni per una mammografia, per dirle. Per fare un esempio, no? Si parla tanto di screening, ma ormai non si riesce a fare più neanche questo. E chi può pagare va a farsi visitare privatamente o addirittura operare privatamente con costi esageratissimi. Il resto, ahimè, è costretto a subire le conseguenze di questa situazione. Insomma, si parla anche di patologie serie come appunto i malati oncologici o cardiologici. Certo, i malati cardiologici che hanno magari delle operazioni programmate, degli interventi programmati, in questo momento sono messi in lista d'attesa. Ci sono persone che hanno aspettato 2 anni per un intervento ai reni, per dire. Non è una cosa accettabile, ripeto, senza voler buttare addosso la croce ai sanitari, i quali stanno volgendo tutti, a cominciare da chi fa le pulizie degli ospedali, stanno dimostrando grandissimo senso di responsabilità, ore e ore passate a lavorare, ferie sospese, siamo veramente in una situazione di collasso, insomma. Quali soluzioni potrebbero esserci? Già da prima della pandemia lo dicevamo, glielo ribadisco, riaprire e allargare quantomeno i posti disponibili nelle università, ma ormai la situazione pandemica non ci permette nemmeno di chiamare medici dall'estero, perché siamo in una situazione in cui i medici hanno un valore importantissimo. I medici di base, quelli che sono andati in pensione, non sono stati sufficientemente rimpiazzati. Anche questo è un problema, perché avere un medico di base che abbia un numero di assistiti minore rispetto a quelli che hanno adesso, cioè si arriva fino a 1800 pazienti per ogni medico di base, ma lei c'ha un'idea cosa significa per una persona dover far fronte in un momento come questo a 1800 pazienti con 1800 problemi più o meno gravi tutti. Cioè, lo sforzo è immane e nessuno qui è capace di far fronte a tutto questo, insomma, non è possibile. Quindi dal mio punto di vista bisognerebbe riaprire i concorsi, fare dei contratti. Siamo arrivati al punto, e meno male, voglio dire, che, come dicevo, il senso di responsabilità da parte dei sanitari è grande. Medici che sono andati in pensione sono ritornati a dare una mano, ma questa era una cosa che andava fatta molto prima della pandemia. Insomma, ci vuole, come dire, la capacità di analizzare nel lungo periodo le conseguenze e porre delle soluzioni, mettere in atto delle soluzioni che prevedano una situazione grave, e quindi dal mio punto di vista bisognava pensarci molto prima. Adesso quello che si fa è mettere, come si dice, la classica toppa sul buco, che però non risolve assolutamente il problema. Quindi bisognerebbe intervenire d'urgenza, subito, per fare almeno quello che si può in questo momento. Sono molto molto scettica rispetto alle decisioni politiche che vengono messe in campo, pur riconoscendo a questa regione, questo lo voglio dire, ogni sforzo possibile. Si era parlato, per evitare di intasare gli ospedali, di creare proprio anche degli ospedali Covid, in modo da non intasare tutte le strutture. Allora, è vero, ma cosa è successo? È successo che quando è cominciata, per fortuna, la vaccinazione di massa, poi si sono chiusi i reparti Covid, si sono chiusi gli hub vaccinali, si sono ridotte moltissimo e poi di nuovo di corsa ricominciamo a riaprire gli hub. Abbiamo visto tutte le file che si sono verificate presso gli hub, lunghe code di macchine, perché poi fa pure freddo e le persone non possono certo aspettare fuori per strada, quindi in macchina con i motori accesi diventa una catena dalla quale non se ne esce se non con una vera e propria programmazione, tenendo conto che l'allarme pandemico c'è già stato e che questo dovrebbe insegnare a tutti che bisogna programmare.